La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in diretta un ringraziamento ad Oscar Giannino per continuare ad ascoltare Radio 24 e poi anche chi ci ascolterà in podcast. Sono le 16:30 primi 41 secondi, quindi in diretta dagli studi di Milano. Abbiamo un argomento, però come è ovvio la cronaca prende il posto, perché immagino molti di voi siano informati che oltre alla novità di questa notte, cioè i 59 missili cruise che il presidente degli Stati Uniti ha deciso di dirigere verso l'aeroporto dal quale sarebbero partiti gli aerei siriani sospettati di aver usato le armi poi chimiche, di cui abbiamo visto i risultati, con tutta la polemica aperta che c'è nel mondo relativa alle prove che sia davvero stato così, ed è stato l'inizio di giornata per tutto il mondo la scoperta di questo presidente Trump, che cambia radicalmente posizione rispetto agli appelli che aveva fatto nel 2013 a Obama per non intervenire ai primi utilizzi di armi chimiche di cui era stato supposto il regime di Bashar Assad. Si è aggiunta da pochissimo, dalle tre, un nuovo sviluppo che invece avviene in Europa, a Stoccolma, e qui in studio Alessio Morizzi, che ringrazio, vi diamo attraverso di lui e la testata giornalistica, il giornale radio di Radio 24, ci darà tutte le informazioni nel corso di questa trasmissione, man mano che le agenzie ci aggiornano. Allora Alessio, che cosa sappiamo intanto di quello che è avvenuto a Stoccolma? Allora, l'ultima notizia è che poco fa il premier svedese Löfven ha parlato di un attacco terroristico, il governo ha convocato una riunione d'emergenza, dunque sembra chiarirsi che si tratta di un attentato. 5 i morti per questo camion che ha piombato sulla folla nel centro della capitale svedese. Il numero delle vittime lo ha riferito un giornalista, un reporter della radio pubblica svedese che si trovava sul posto e dice di avere visto i corpi a terra. L'autista del camion indossava un passamontagna, riferiscono testimoni. Secondo i media svedesi il camion sarebbe stato dirottato o forse rubato. La polizia conferma un fermo, un arrestato, ma non è chiaro se si tratti del camionista sequestrato in seguito a questo dirottamento oppure di un'altra persona. La dinamica è questa: poco prima delle 15 nel cuore della capitale, a Drottninggatan, Queen Street, la strada pedonale più famosa della città, sede di numerosi centri commerciali, un veicolo ha investito alcune persone. L'incidente è avvenuto nei pressi di un grande magazzino. Il camion ha falciato la folla in strada praticamente, poi ha finito la sua corsa nel centro commerciale che si trovava da quelle parti. Altri media riferiscono anche di spari che sono stati uditi nella zona, ma forse anche altrove, dove c'è stato questo attentato. L'area è stata evacuata, il Parlamento svedese chiuso per il momento, però non si hanno altre notizie, Oscar. Naturalmente non ci sono ancora né rivendicazioni né matrici precise. Il governo però, come avete sentito, ha parlato chiaramente di un attentato, cioè non è un incidente di un autista che abbia, per così dire, perso il controllo del mezzo. Due prime riflessioni: stiamo parlando di un paese nel quale la presenza musulmana c'è ed è forte, ma stiamo contemporaneamente parlando di un paese, la Svezia, che in tutti questi anni, in tutti gli sviluppi degli interventi in Medio Oriente, dai tempi dell'occupazione da parte di Saddam Hussein del Kuwait, poi all'operazione Scudo nel deserto, poi a tutta la lunga trafila della presenza occidentale, armi in mano in Iraq, e al frazionamento del paese di fronte poi all'insorgenza sempre più forte e al progressivo ritiro, però la Svezia ha sempre caratterizzato nel novero dei paesi occidentali il suo ruolo come coerente alle scelte di politica estera che ha sempre seguito, quindi non si è impegnata sul campo con aerei, con uomini eccetera eccetera. A maggior ragione poiché questo è il campo occidentale, ma senza impegno militare da sempre scelto dalla Svezia, se confermato che si tratta di un attentato del tutto analogo per modalità e purtroppo per esito tragico a quelli che abbiamo visto a Nizza e a Berlino, cioè l'utilizzo di camion per falciare vittime innocenti, e che abbiamo visto sul ponte prima dell'attentato a Londra, sfociato poi anche lì in vittime e nella guardia uccisa anche dentro il perimetro di Westminster. Tutto ciò è molto analogo, ma colpisce un paese che non ha mai avuto ruoli diretti, quindi a questo punto bisognerebbe immaginare che sia l'Europa in quanto tale, l'Occidente in quanto tale al centro di queste reazioni. Naturalmente potremmo saperne di più solo una volta identificato e chiarito l'autore, la matrice, vediamo se il bilancio delle vittime resta così tragico ma limitato oppure si amplia. Naturalmente su questo i colleghi del giornale radio, Alessio, appena escono novità, senz'altro, certo, ci informano. Qualche ragionamento ancora, perdonate, su quello che è avvenuto stanotte, perché il mondo si è riallineato da questo punto di vista, nel senso che l'Europa complessivamente, sia pur con toni un po' diversi, la Francia molto esplicitamente a favore di Trump, anche la Spagna, la Germania comunque con un tono meno acceso della Francia. La Francia aveva proposto questa stessa strada, cioè l'intervento militare dell'area contro Bashar al-Assad già nel 2013, e l'America di Obama non aveva seguito quella strada. Ripeto, nel 2013 Trump la pensava all'opposto rispetto a quello che ha fatto stanotte. Stamattina il Presidente del Consiglio Gentiloni ha invitato tutti a non sottovalutare l'uso delle armi chimiche, che è un crimine contro l'umanità. Per questo si è accesa immediatamente una polemica politica durissima in Italia con i 5 Stelle, che dopo la condanna durissima dell'intervento americano hanno attaccato personalmente il Presidente del Consiglio, dichiarando inascoltabili, intollerabili le sue parole. Molti dei sostenitori di Trump in Italia hanno cambiato idea dopo questo intervento, lo ha fatto Salvini, che ha condannato durissimamente il leader della Lega all'intervento americano. La leader di Fratelli d'Italia in prima mattinata ha espresso molte perplessità, poi ha indurito la posizione condannando anche lei l'intervento. Dall'altra parte invece Forza Italia, che sia pur con toni misurati ma comunque è a favore, evidentemente Berlusconi apprezza quello che ha fatto Trump stanotte. Resta il fatto, come sentirete anche nelle successive edizioni del giornale radio, su Radio 24, che l'interpretazione di questo cambio di strategia radicale del presidente Trump rispetto alle attese, rispetto a tutte le volte in cui aveva dichiarato che quello con Putin sarebbe stato un rapporto ispirato a tutt'altro tipo di ottimismo e positività, vedrete che anche negli Stati Uniti si intrecciano, come nel resto del mondo occidentale, interpretazioni le più varie e diverse, perché è una svolta veramente a 180 gradi rispetto a quello che aveva detto. C'è chi parla, e le abbiamo accennato anche questa mattina quando eravamo in diretta stamattina alle 8 con le quattro voci che abbiamo ospitato, diversi primi analisti che abbiamo ospitato questa mattina, su quale può essere la lettura interna all'interno dell'amministrazione, ed è chiaramente coerente col fatto che il Trump sembra dare molto più retta essenzialmente ai due generali che costituiscono il cardine della sua amministrazione, Mattis al Pentagono e il generale McMaster, che è diventato il suo consigliere alla sicurezza dopo che il primo generale era caduto proprio per le accuse e i sospetti di essere troppo vicino a Putin. E il generale McMaster evidentemente che conosce direttamente per l'impegno e i comandi che ha avuto in Iraq, è molto più vicino a quella linea neocon repubblicana del partito repubblicano tradizionale, contro la quale Trump invece aveva preso i voti dicendo che era completamente sbagliata, perché Trump all'inizio parte con una polemica durissima verso l'interventismo militare americano in Medio Oriente, poi nel resto della campagna diventerà Obama e la sua indecisione, l'appoggio alle primavere arabe poi degenerate, molto diverse da come l'amministratore Obama le aveva presentate, ma c'era anche questo côté di polemica durissima verso i neocon. Invece questa sembra di questa notte una mossa classicamente neocon, tant'è che negli Stati Uniti sui giornali americani si leggono le prime interpretazioni che parlano di lotta interna per il timone della politica sulla sicurezza e difesa americana contro il terrorismo. Nel frattempo, anche sullo scacchiere medio orientale diretto, la Turchia è a favore, durissimamente a favore dell'intervento americano, delusa dal giro di valse che Erdogan aveva fatto negli ultimi mesi a favore di Putin, e contemporaneamente alla ricerca di un ruolo che gli americani secondo me non gli daranno, lo dicono anche testate come politico.eu, politico.com, ci sono i primi dubbi sul New York Times, però di fatto Erdogan è a favore. Oggi pomeriggio, ma delle agenzie non sappiamo ancora nulla, Putin riunisce il Consiglio di Difesa che presiede in quanto presidente russo, e vedremo quali saranno i commenti. Lo sapete che i commenti sono stati durissimi. Sullo sfondo c'è anche il fatto che nessuno oggi si può dire certo davvero di le vittime che abbiamo visto, i bambini, i civili colpiti a Idlib, davvero siano vittime di un intervento aereo delle forze di Bashar al-Assad, dalle quali non si capirebbe qual è il vantaggio che ha Bashar al-Assad, oppure se invece, poiché i volontari che avete visto nelle fotografie intervenire, i caschi bianchi e così via, fanno parte di quelle forze islamiste sunnite che sono contrapposte a Bashar al-Assad, abbiano in qualche misura anche una corresponsabilità in quello che è successo. Le prove di tutto questo non ci sono, e io termino dandovi qualche altro dubbio. Ci sono analisti strategici che non capiscono come sia coerente il dato di 59 missili cruise. Missile cruise è uno sberlone di 6 metri con una testata di guerra, quando è convenzionale, di 480 kg. 59, tra l'altro, significa una sessantina di milioni di dollari spesi solo in 59 cruise, contro una pista di 1400 metri, dopo aver avvisato i russi siriani, perché anche i siriani hanno levato gli aerei, sono stati avvisati evidentemente dai russi. 59 missili di questo tipo. Alcuni leggono il comunicato russo in cui si irride al fatto che solo 29 hanno colpito l'obiettivo, dicendo e gli altri evidentemente sono andati su altri obiettivi. Insomma, ci sono molte cose ancora nel dettaglio, ma dettagli molto importanti, che chi fa il mestiere di giornalista ha l'obbligo di dire che non gli sono ancora chiari. Non c'entrano le idee in campo, se uno è per l'Occidente o siamo tutti contro il terrorismo, ma di fatto nel nostro mestiere sappiamo che troppe volte, quando si cambia marcia e si diventa interventisti, non tutta la verità viene raccontata. L'incidente del Tonchino con l'escalation di Lyndon Johnson nel Vietnam, abbiamo saputo dopo anni che era larghissimamente montato, per non dire completamente falso. Il telegramma di Ems che scatena la guerra nel 1870 tra francesi e tedeschi era un falso. L'aggressione dei polacchi alla frontiera tedesca, con cui nel 1939, il primo settembre, Hitler scatena l'invasione della Polonia, era un falso, perché erano stati i tedeschi con divise polacche a metterlo in atto. La guerra è un brutto mestiere, non devo ricordare il rapporto che il segretario di Stato all'epoca Powell, e ci credetti anch'io, mi batto il petto, presentò alle Nazioni Unite a proposito delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, e poi i fatti rivelarono che non era vero, del rapporto di Blair al Parlamento britannico, che è costata giustamente e comprensibilmente la popolarità a Blair ancora oggi, e che anch'esso si rivelò poi manipolato. Il dirigente, il consulente per le armi di distruzione di massa del Ministero della Difesa britannico, che lo rivelò a un giornalista, si uccise di fronte allo scandalo che le esplose. Ecco, chi fa questo mestiere di giornalista ha l'obbligo di ricordarvi tutto questo, e ha l'obbligo di farlo anche mentre piangiamo nuove vittime a Stoccolma, nell'attesa di capire meglio quale sia la matrice, chi i mandanti, chi ha colpito, ma sapendo che oramai le analogie sono purtroppo tragicamente quelle che fanno pensare agli attentati che hanno iniziato a colpire con pochi mezzi, senza grandi reti né logistica di appoggio, a degli islamici islamisti radicalizzati, magari con un percorso di vita incerto e irrisolto, che pensano a quel punto di entrare in azione, raccogliendo questo invito al franchising che l'ISIS e le reti terroristiche islamiste lanciano a tutti coloro che sono nei paesi occidentali a colpire, a fare vittime, a colpire, a fare vittime. Allora, per il momento io ero in attesa, l'ho fatta anche un po' lunga perché abbiamo provato a sentire una parlamentare svedese che abbiamo già più volte ospitato, che parla italiano. Continueremo nel frattempo a sentirla, perché ci aveva richiamato e speravamo di averla ai microfoni per sapere una prima reazione da parte sua. In caso contrario, adesso andiamo alle informazioni sul traffico, e quando torniamo, in realtà vado anche al tema che avevamo in trasmissione. Il tema era... si parla, atteso, vedremo se nel DEF se ne riparla o meno, di varare la tanto promessa, ma anche paventata, riforma del catasto, dei redditi catastali, e facciamo una riflessione di qualche minuto per vedere quanto c'è da temere, se davvero ci sarà, perché Renzi non la vuole, ma se davvero ci sarà, quanto e per chi c'è da temere. Tra un minuto. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta... La versione di Oscar. Allora, buon pomeriggio a Sergio Nava. Una breve interruzione all'interno del programma di Oscar Giannino per aggiornarvi. Abbiamo parlato con Alessio Maurizi poco fa delle notizie da Stoccolma. Invece, per quanto riguarda la situazione in Siria, c'è il commento del segretario dell'ONU Antonio Guterres. Consapevole dei rischi di un'escalation, mi appello alla moderazione per evitare ogni atto che possa peggiorare la sofferenza del popolo siriano. Così Guterres su Twitter. Guterres ha chiesto anche una via d'uscita politica alla crisi siriana. Ricordiamo l'attacco con 59 missili Tomahawk questa notte da parte dell'America contro una base aerea siriana. Secondo la CNN, gli Stati Uniti hanno dato alla Russia un'ora di preavviso sull'attacco, questo appunto probabilmente per evitare, si dice, danni collaterali e allontanare eventuale personale dall'area. E poco fa anche il Canada si è unito, diciamo, al coro dei paesi, soprattutto occidentali, ma non solo, che appoggiano l'attacco americano alla base militare siriana, e a dirlo lo stesso primo ministro Justin Trudeau, appunto, poco fa. Restituisco intanto la linea a Oscar Giannino e ovviamente tutti gli aggiornamenti sulla situazione in Siria e anche a Stoccolma nella GR delle 17. Grazie. Quella di Justin Trudeau non era scontata, infatti è stata un po' attesa, come vedete. Justin Trudeau, sapete, ha nei confronti del presidente Trump, in attesa anche di capire meglio come la presidenza Trump si muoverà su NAFTA, che lega appunto, disciplina il commercio con Canada e Messico, però come avete sentito la solidarietà e il sostegno pieno c'è. Allora, tentiamo di capire adesso, scusandoci, ma naturalmente sono le esigenze della cronaca con quello che avviene nel mondo, perché abbiamo con noi il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. Buon pomeriggio, ci perdoni se purtroppo il tempo che è rimasto non è molto, intanto però grazie. Buon pomeriggio. Ecco, il punto è questo. Innanzitutto, ci informi lei, da quanto sapete voi del governo, se vi hanno informati o da quello che avete capito, nel DEF c'è la conferma davvero che parte la riforma del catasto, e qual è la vostra posizione? Perché sui giornali abbiamo letto che il problema è che il governo dice non vi preoccupate perché cambieranno molto i redditi catastali, perché è a invarianza, questa è la formula che usa sempre il governo, in realtà c'è sempre qualcuno che poi paga di più. Ma il problema, tutti i giornali hanno dovuto scrivere che comunque l'effetto sull'ISEE è di aumentarlo molto, quindi molta gente comunque perderà con l'ISEE più elevato l'accesso preferenziale e a condizioni di vantaggio ai servizi pubblici locali. A voi cosa consta? Ma le notizie sono ancora incerte. Che ci fosse e che come proposta e come bozza, sì. Che poi sia nel testo finale non lo sappiamo ancora, perché come sappiamo anche direttamente, oltre che per averlo letto sui giornali, c'è una forte perplessità anche della maggioranza, del partito di maggioranza, che di Renzi in persona, poi di Renzi in persona, che aveva, diciamolo, ricordiamolo, bloccato nel giugno del 2015 questa riforma. Il punto sui rischi è molto semplice. Primo, non si può fare una riforma del catasto, o comunque anche programmarla semplicemente nel documento di programmazione economica, di economia e finanza, in una situazione così, politica così instabile e a così poco tempo dalle elezioni, perché o si prospetta e si ipotizza di fare una riforma troppo in fretta, se la si vuole fare subito, oppure è una promessa non si sa a chi, inutile, perché poi lo dovrebbe fare un futuro governo. Quindi in entrambi i casi è una cosa sbagliata. In più aggiungo, ma poi vengo subito alla questione dei rischi, non si vede perché ce la debba continuare a chiedere l'Unione Europea. Questo lo chiedo anche all'esperto ministro di economia Oscar Giannino, io non capisco perché l'Unione Europea, la Commissione, nelle sue periodiche raccomandazioni ci debba continuare a chiedere qualcosa che non è neanche una scelta fiscale, che già è discutibile che ci chieda, ma una modalità di diciamo predisposizione di una base imponibile di un tipo di tassazione. Ma questo è un mistero che non risolverò mai, visto che l'Europa si dovrebbe occupare di rispetto del deficit. Esatto. Tanto è vero, mi perdoni, che io ho sempre immaginato che, dunque, lei sa che all'Europa non è piaciuto l'intervento su IMU prima casa. Sì, ma sì. Ma al di là di questo, io ho sempre pensato che l'insistenza nel chiederci la riforma delle rendite catastali derivi dal fatto che in realtà il governo gli abbia sempre detto che così si incassa di più. Questa poi è la cosa che io... Lo scriveva anche Francesco Forte, esatto, ieri, non si vede, no, perché poi, visto che ad invarianza di gettito, lo diceva la legge delega, quella approvata che poi non è stata attuata, allora insomma, delle due l'una, o c'è una bugia da una parte, no, o dall'altra. Esatto, allora, come se spesso capita all'Italia, secondo me, quando fai i negoziati europei, in Italia dice una cosa, poi in realtà lì ne ha detta un'altra. Questo non è mica la prima volta che capita, ma però io vorrei che tutti ricordassimo qual è l'ammontare delle imposte, perché non è che abbiamo levato l'IMU prima casa e quindi risolto il problema, l'ammontare delle imposte che a vario titolo pagano oggi i proprietari, a quanto ammontano? Ammonta a circa 50 miliardi di euro, questi sono i nostri calcoli. Sono i nostri calcoli considerando le imposte puramente patrimoniali, che sono IMU e TASI, che esistono per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e anche, se vogliamo, per qualche abitazione principale, che sono le imposte sul reddito, l'IRPEF, la cedolare, eccetera, che sono le imposte indirette, registro per quando si comprano gli immobili, e che è anche la tassa rifiuti. Questo lo dico perché si fanno a volte confronti internazionali e anche l'OCSE per l'Italia non considera la tassa rifiuti, la considera in altre imposte di altri paesi dove è inglobata nell'imposta patrimoniale, nell'imposta, diciamo, sugli immobili. Quindi 50 miliardi, 3% circa del PIL. È una tassazione eccessiva e dovrebbe essere questa la priorità di un governo, non quella di certamente risolvere qualche problema di iniquità che necessariamente c'è in un catasto che è vecchio e che ha bisogno di un aggiustamento e di una... Ma con voi su questa questione del effetto aumento rendite catastali sull'ISEE, il governo aveva preso qualche impegno? No, perché poiché il presupposto è la famosa invarianza, da lì poi non ci si muove, senza considerare che l'invarianza ovviamente vuol dire, come forse dicevamo prima, varia in alto per qualcuno e varia in basso per qualcun altro. Però l'elemento ISEE è fondamentale. Considerare l'abitazione principale, che per gli italiani soprattutto è un bene primario e diffusissimo, nel calcolo di un meccanismo che porta ad avere agevolazioni per chi è in difficoltà, è veramente grave considerarla come la si fa ora con quei moltiplicatori. Ecco, secondo me la verità è che loro non hanno ben l'idea di cosa può essere danno sull'ISEE. Questo credo che sia ciò che in realtà Renzi teme di più. Temo a ragione, perché la base su cui hanno fatto, secondo me, le proiezioni che abbiamo visto sui giornali autorizza a credere che ci sarebbero enormi problemi, ma su chi ha redditi bassi e si è impegnato tutta la vita per comprarsi una casa. Comunque, noi torneremo su questo. Io mi scuso ancora con Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, perché erano rimasti pochi minuti. Purtroppo le giornate sono tragiche, dobbiamo inseguire e informare i nostri ascoltatori. Continuate tutti su Radio 24 per gli aggiornamenti. Appuntamento con me, che è Alberto Cannavale Maffè, e naturalmente Mario Seminerio, Renato Cifarelli, domani dalle 10 alle 12 in diretta come tutti i sabati sui Conti della Belva.